si chiama quello che c'è nel via Milano, quello lì lo stesso li pagano in ritardo, ogni tanto sono gli scioperi, un casino, che c'hanno, diciamo, ragazzi malati, dai. Gesù Nazareno. No, non mi ricordo come si chiama, ma che è quello, no, è quello, parlo in ritardo perché aspetta il finanziamento perché la regione aspetta. Gesù Nazareno si chiama. Gesù Nazareno, quello gli aspetta il finanziamento, se non arriva il finanziamento, un anno là. Casino, E lì c'è un sacco di gente, perché sono diverse aree, c'è la A, la B, la C, insomma sono diverse categorie di malati. Ma lì dove ti paga, fate un piacere, anche lì dove lo fa pirarmi. Ma la gente può pagare, si trovate può pagare, non è che può stare lì senza subito. Se ma 15 giorni lì, poi come riceve i finanziamenti, paga tutti. Se tu hai di pagare una cosa, non è che devi agitare i finanziamenti, devi avere lo stipendio ogni mese per pagarti le cose che devi pagare, fare la spesa e tutto quanto. Non è che puoi agitare che ti dai lo finanziamento. Infatti gli suoi, però so che a molta gente mi stanno chiedendo i soldi, ai viconi. Alto? Sì. E prima? No, ma molti già lo fanno, già li fanno, quando non hanno soldi, li dà, il comune gli dà un qualcosa, li dà e paga, no? Hai capito? Ma questi istituti qui hanno bisogno di finanziamenti grossi perché devono comprare la roba da mangiare per tante persone, non è vestirli, farli, capito? Non è roba da poco, te l'ho detto, sono diverse aree, cioè in base alla gravità della malattia, perché c'è gente praticamente che non è capace di intendere di com'è, ci sono persone meno matte, cose. Quindi praticamente in base alla categoria sono divise in aree, ci sono, c'è quella delle donne, c'è quella di maschi, capito? Sono a pari. Sì, vabbè, quello sì. Però già, se non vai di là, già ti dà qualcosa il comune per pagarti l'istituto. Aiuto magari volontario, ma un aiuto che glielo darà. Non si possono lasciare in mezzo alla strada queste persone che ci sono lì. Sono persone che hanno messo lì perché in casa non si possono tenere, e combinano tanti guai e cose. Capito? Tore, tore, senza motore. Purtroppo il sindaco ha detto che non può andare avanti, che non lascia fuori a nessuno, quindi quell'istituto c'è per tanti anni, quindi mi va bene 50 anni, ero minore di 50 anni, sono piccolino io. Io quando andavo a prendere la nonna avevo 9-10 anni così, quando andavamo a prendere la nonna con mamma, sui 9-10 anni c'avevo, immaginati, è storico quell'istituto. Io mi ricordo all'entrata c'era sempre la cosa, la portinaia che stava sempre cucendo, facendo la maglia, immaginati, mi ricordo anche in particolare. Ed era un istituto che c'erano abbastanza di anziani. Infatti era così, io l'ho conosciuto da piccolino, l'ho conosciuto. Ma gli ha pari 8 anni, va bene. Forse 9, 8 e mezzo ne avevo, dai. Camara di 64, immaginati. Purtroppo molte volte entravo dentro a trovare le persone anziane lì. Lasciavano entrare, entravo a fargli compagnia e tutto. Allora, anche non me lo ridi. Ma invece non ti fa entrare. Ma tu stavi a quelle parti? Alla gonza! Alla gonza stavo! Ho capito. Vabbè, comunque è un istituto, forse è il primo che è nato a Sassari, senza forse. Io non mi ricordo che ce ne fossero altri. Io ho conosciuto tanta gente anziana lì, 160 km. Che da voi in Mursa e cose, caspita. Ah, gente anziana che abitava lì vicino stesso. Ho capito. E lì, quelli istituti sono la precamera della morte, vanno lì per aspettare di morire. E così c'è poco da fare, così dicono gli anziani. Infatti è così, infatti è così, c'è molta gente, c'è andata lì per morire. Vedi, Casa Serena è un altro istituto che, vabbè, è difficile entrare a Casa Serena, deve avere il corso per entrare. Però fanno di tutto, a Casa Serena fanno teatro, gli anziani fanno di tutto lì. Venga, infatti è così, fanno di tutto lì, fanno. Tanti anni fa. Poi c'avevo dei parenti, anzi mia moglie c'aveva dei parenti lì, che avevano bisogno più. Sì, c'era anche la nonna di mia moglie, lì a Casa Serena. Ma parlo di tutto, io sono andato anche a fare teatro, perché c'era un periodo che ero scout e andavamo per gli istituti così per far rallegrare gli anziani e cosa, facevamo teatro, avevamo preparato un teatrino, io mi ricordo che la battuta mia era, facevo il barista, e uno gli ha detto un amaro, e io ho detto 18, e lui ha detto no, uno solo. Purtroppo quando si diventa vecchi, quindi non ti la fai più, ti dici che lui sei tutto, però non ti ricapperà nessuno. E chissà che a fine verbo lui, no, non te lo sei mai domandato. Sento, se te ne riesci a fare in casa mia, è ovvio. Santa Danazzi, tu no, ha fatto anche lui, vorrei arrivederci. Dimmi che microfono stai usando tu. Intec M600. Tu mi lo stesso che c'ha Antonio, Antonio in te. Sì, è un po' cupa, ma non come quella di Antonio, è troppo cupa. C'era uguale Antonio, fresco e cupo di radio. Strano, pure abbiamo detto che esco bene. Allora, prova a attaccarlo. Sì, ma devo entrare nell'altra stanza, devo entrare. Per me è così, poi gli altri non lo so, io ti ho ascoltato con due radio, con tutte e due radio si cucco. Non lo so. Guarda, c'è l'eco lì, c'è l'eco anche. E c'è bello forte, però quando lo alza è cucco anche lui. Prova a alzarlo, tu, quando lo senti. Come, l'eco? Prova a far alzare. Guarda a vedere adesso. Però vedi, lui è forte, è più chiara la radio, invece la tua è cupa tu. Quella di Tore sì, è, diciamo, è troppo forte, però è chiara, capito? Non è cupa. E quella tua rimane più cupa, forse è il tuo tipo tu di voce, non lo so che non si addice. Me la seguo io la sincronia. Non ne ho idea. Esce, entra un attimino dentro e proviamo, dai. Questo qui è quello che c'ha per Mario Maria. Voglio chiamare la macchina. Bella, l'ho cambiato il capo, l'ho messo a posto, tutto quanto. E esce forte, esce, un bel forte, anche troppo, per i gusti miei. Esce forte, esce. parecchio, un massacchiarsi una leva. E ci ho letto. No, io parlo di questo massaggio, lo squadro, no, lo squadro. Ma che dietro, ho dovuto portare a te. E poi un'altra cosa, ho dovuto abbassarmi. Adesso è su di inizio. Guarda a vedere come succede. Guarda a vedere un attimo. Sono poco, anche la mia adesso è così, prima andava un S6, un S7, ma non era possibile, c'era qualche costo, qualche cosa, capito? Perché poi dopo che gli ho messo lo spray non l'ha più fatto. Dipende da come è messo. Da pagare quanto? Gianni, vado nel 23 un attimino per vedere se c'è Gian Maria. Gianni. Oh, non c'è, no, sono controllato io. Chi? Come nessuno. È libero, a meno che sia in ascolto. Ascolto, lo devo guardare a vedere. Prova a guardare, ma penso che non ci sia. Accendi per una bocca. Anto, ci sei? Mangio, quanti si dice? maggio magnato una di si cattoli in Macedonia, in tre maggio magnato. Ah, oh, cosa è? Ma è nuda. Oh, io mi voglio mezzo chilo di cose, di io, sarà giù. E vabbè. Di un chilo di yogurt mi sono mangiato, quello greco, quello grande grande. Rimaniamo. Sì, vabbè, chi su già non ti fa zimare, dai. No, anzi, regola l'intestino qua. Ah, limite a che te lo dico, vedi? Ma a me mi fanno a cuscio, mi fanno. Come? Ma io non mangio quelli, non mangio quelli alla frutta, mangio quelli normali, quello intero. No, ogni tanto lo mangio, non ne mangio sempre, ma ogni tanto me li copro e me li mangio. E mi piacciono anche. Che mamma che te l'ha già mangiato? Forse soffri di colite e ciullate, lo mangi la mattina? No, no, mi è passato da una lunga colite. Vabbè, ma se sei intollerante non immagini, no, di queste cose. E no, Iulia. Sì, è un'allergia alla colite, all'allergia all'intestino. Fa venire le coliche. E sì, dai, bianco per me che mi stanno chiamando, già ci salutiamo e vado a cena. Ciao ciao a tutti. Ciao a tu, ciao, buona carica, e avanti Tony. Ciao a voi, buona carica, ce la deve fare, se no state giù oggi, come il Ramadan. Ma devo fare, devo fare. Ok, dai, ciao ciao a tutti. Ciao ciao a tu. Ciao a tu. E Luca, fuggito, Luca ci ha dato la benedizione e dopo non si è tratto più, non è andato alla pace perché stava tornando dal lavoro, capito? Forse fai i suoi, quando noi andremo. Sono tornato da Umbria, sarà che è stanco. Dai, Edu. Una battaglia che ha fatto. Dai, Edu, che è stanco. La... tra Valle e Vela, ma chi ci vuole che si è traccato sicuramente? Quando con la Valle, dopo il viaggio, tutto gatto, ci stacca, i 120 km sono Umbria, non è due bassi, eh. Aspetta, per lei, due anni, no, due anni fa, ci ha chiamato mia figliola, ce l'ha fatto, ma ce la fai a venire a Urbia a prendermi? Come è stato? Che ha detto? A me, ma com'è che mi ha detto di venire in aereo, alla riva? Se si pressa e fammi un fagiolone di macchina. Magari l'hanno deviato perché c'era vento, roba del genere. Quando c'è vento così lo deviano. Sì, l'hanno fatto atterrare a Umbria, l'hanno fatto atterrare. Ma com'è? Alla partenza gli hai fatto da l'angelo. Cappa. No, dai, ci saluto che il cane sta venendo a chiamarmi, dai. Ci sentiamo, buona serata e buon tutto, buona continuazione. Ok, già, ci risentiamo alle prossime, ciao. Ciao, ciao.